1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:17 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, ora leggeremo i giornali come al solito nella rassegna stampa, vi ricordo però che parleremo certamente degli scontri avvenuti ieri a Roma, avremo ospite il vice ministro dell'interno Filippo Bubbico, questo alle 8:45, ma parleremo anche della situazione Ebola, avete sentito ieri Luca Zaia, presidente del Veneto, arrabbiato perché alcuni militari americani, e oggi ne arriveranno pari altri 30, sono stati trasportati dall'Africa nelle basi militari americane a Vicenza. E dice se ne tornino nel loro paese, ha scritto anche l'ambasciatore americano in Italia, ha scritto a Renzi. E avremo ospite lui, avremo ospite anche il sindaco di Vicenza, Variati, per capire se la situazione sia sotto controllo e dove finirà questa polemica. Ora però andiamo a sfogliare i quotidiani che trovate in edicola. In questo giovedì 30 ottobre intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore su Fiat Chrysler che scorpora Ferrari, il 10% quotato a giugno, questo è il titolo di prima pagina, il titolo che vola a Wall Street, in questo caso il titolo come azione, più 12%. E poi quello che è successo ieri in piazza a Roma, gli scontri tra polizia e gli operai della Thyssen di Terni. Gli operai feriti agitano il governo, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, mentre Repubblica, operai picchiati, la CGIL vergogna, è scontro con il PD. La Stampa, scontri al corteo degli operai, mentre il Messaggero, scontri al corteo, l'ira di Renzi. Per il Giornale, dopo le tasse, le botte. Il Fatto Quotidiano, in questo paese di ladri picchiano gli unici onesti, è la frase di Landini che viene fotografato in mezzo agli scontri e che abbiamo sentito anche alle 6:30. Libero, botte da Orbi nel PD e in piazza. Mentre il Quotidiano Avvenire, paroloni e cariche, poi media Renzi. Il Manifesto mette la stessa foto che è in prima pagina Il Fatto Quotidiano con Landini è tornato dalla polizia, tutele crescenti, questo è il titolo di prima pagina del Manifesto. Voglio però partire da che cosa? Beh, intanto una notizia che ha solo il Corriere della Sera e in prima pagina sono Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, cioè i cronisti di giudiziaria, che la mettono e riguarda un'indagine per corruzione nei confronti dell'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti, che è indagato a Milano per corruzione. L'ipotesi è quella di aver preso una mazzetta sotto forma di una falsa fattura, una fattura a copertura da 2,4 milioni di euro del marzo 2009 da parte di Finmeccanica allo studio dove Giulio Tremonti prestava opera come tributarista. Tremonti indagato per corruzione, così alla pagina 25, una tangente da Finmeccanica. Per i PM, scrivono Ferrarella e Guastella, se dovesse avere ragione l'inchiesta sarebbe un raro caso di corruzione ministeriale, una supposta tangente da 2,4 milioni di euro che nel marzo 2009 il tributarista Tremonti, nelle sue funzioni di allora ministro dell'economia nel quarto governo Berlusconi, avrebbe incassato da Finmeccanica, controllata dal Tesoro, in cambio dell'ammorbidimento della propria iniziale contrarietà a un controverso e stratosferico acquisto per 3 miliardi e 400 milioni nel luglio 2008 della società statunitense DRS, fornitrice del Pentagono. Una tangente che sarebbe stata veicolata dietro lo schermo di una parcella professionale liquidata da Finmeccanica a saldo di una apparente consulenza su profili fiscali, appunto, dell'acquisizione dell'americana DRS da parte dello studio Vitali Romagnoli Piccardi Associati, dal quale il fondatore Tremonti era formalmente uscito essendo divenuto ministro e di cui oggi è di nuovo socio. Questa è l'ipotesi d'accusa della Procura di Milano, dunque una fatturazione. È vero che Tremonti era uscito, ma oggi è socio e quindi l'ipotesi è che abbia preso una mazzetta. L'ipotesi è quella di corruzione. Vabbè, ma questo ovviamente, come si sa, vedremo come va a finire. Avete 1.000 euro per caso, cari cittadini italiani? 1.000 euro. Sento già, vedo già i vostri messaggi al 349-238-6666 di insulti. 1.000 euro magari ce li avete. Comunque, se avete 1.000 euro, sappiate che potete pagare le spese condominiali, i libri per i figli, le bollette, le tasse, le rate del mutuo, oppure potreste andare a cena con Matteo Renzi. Il 6 e 7 novembre, 6 novembre a Milano, 7 novembre a Roma, iniziano le cene per finanziare il partito, come raccontano Il Fatto Quotidiano e Il Giornale in una mezza pagina. PD, cene di finanziamento per pesci piccoli, è l'iniziativa del tesoriere Bonifazi, un po' all'americana, un po' anche alla Berlusconi, che fa queste cene per raccogliere soldi, per rimpinguare le casse esangui del partito. 1.000 euro se volete cenare con Renzi. 6 novembre a Milano, a The Mall, uno spazio di 5.000 metri quadri in zona Varesine, mentre a Roma la convocazione Salone delle Tre Fontane di via Ciro del Grande, 1 migliaio di persone, e dunque affrettatevi, venghino signore e signori, perché i posti sono limitati. 1.000 euro e cenate con Renzi. Non so se bene o male dal punto di vista del menù, spero bene, ma il piatto forte è la presenza del Presidente del Consiglio, ovviamente, no? Mi ha incuriosito invece questa storia che è raccontata dal Corriere della Sera per mezza pagina, pagina 29. C'è una guerra legale in corso per tutti gli automobilisti che sono interessati, magari ci stanno ascoltando e ci state ascoltando, siete in viaggio sulle strade, autostrade soprattutto, autostrade italiane dove c'è il sistema Tutor. Sappiate che c'è una guerra legale sul brevetto di Tutor, così racconta Edoardo Segantini sul Corriere della Sera. C'è una società privata che fa causa alle autostrade, dicendo: il Tutor lo abbiamo inventato noi e voi ce lo avete copiato. Chiesto un risarcimento da 7 miliardi e mezzo alle autostrade da parte della società privata gestita da Romolo Donnini e Alessandro Patanè, rispettivamente si ritengono inventore e proprietario del sistema software SICVE, hanno denunciato Atlantia, cioè la holding di Autostrade per l'Italia, per contraffazione e altri reati, e Atlantia ha citato loro in giudizio. 3 dicembre prossimo, fissata l'udienza del Tribunale di Roma, il risarcimento richiesto è astronomico, 7 miliardi e mezzo. Chi protegge e di chi è il sistema Tutor? Questi imprenditori dicono nostro, Autostrade dice assolutamente non vero, è nostro e non abbiamo fatto nessun tipo di reato. Staremo a vedere la vicenda Tutor. Siamo in zona mani sul volante, per l'appunto. Questo è già un antipasto. L'antipasto è questo: 64 ex consiglieri della regione Lombardia rinviati a giudizio, o meglio, richiesta di rinvio a giudizio, poi si vedrà. C'è la richiesta di rinvio a giudizio, le spese sono sempre quelle, vicende passate, Renzo Bossi e le sigarette ai Gatorade, Nicole Minetti e la stranissima passione per, stranissima insomma, e una spasmodica passione per i sushi bar. Ma anche per lo scontrino dell'IKEA, ma in tutto loro sono i nomi più famosi, ma 64 ex consiglieri rischiano il processo per spese e rimborsi facili alla regione Lombardia. Peculato, l'accusa, tradotto: spese loro, soldi nostri, cene di aragoste, sushi, in 64 rischiano il processo. Repubblica dedica 2 pagine, pagina 10 e 11 a questo, c'è tutto l'elenco, tutte le spese più incredibili, vabbè, insomma, si sa ormai cose che erano già risapute, come Nicole Minetti che si è comprata anche il libro Mignottocrazia, che parlava anche della sua vicenda. In totale di spese contestate a lei di 20.000 euro, ma c'è tutto: pizze, cannoli, ciambelle, cene, sushi, coni gelato, gratta e vinci, macchine fotografiche digitali, e poi mojito e daiquiri, 100 euro in mojito e daiquiri del leghista Angelo Ciocca. E vabbè, beh, insomma, sono delle belle serate, però va bene, mojito e daiquiri è tutto. Ma il vero premio mani sul volante oggi è per un articolo che riporta Il Giornale, in realtà è un articolo apparso in prima battuta sul Fatto Quotidiano. Avete le mani ben strette sul volante? Avete le tazzine del caffè bollente da appoggiare? Bufera su Bonanni per la pensione da record. Raffaele Bonanni, pensionato della CISL. Assegno mensile 8.593 euro lordi, che al netto fa 5.391 euro e 50 centesimi. Secondo il Fatto Quotidiano, il leader sindacale ha sfruttato negli ultimi anni le normative, aumentandosi lo stipendio nell'ultimo anno. Pensate che nel 2006, quando era al vertice della CISL, guadagnava 80.000 euro lordi. L'ultimo anno, per far scattare poi la pensione calcolata sull'ultimo anno, 336.000 euro lordi l'anno, il che fa scattare una pensione appunto da 8.593 euro lordi l'anno. Secondo i calcoli del Fatto, gli incrementi per Bonanni dello stipendio sono stati da capogiro del 45% subito. 45%, che è un aumento del 45% dello stipendio, mamma mia. E poi 17%, 26%, del 4% all'ultimo anno 25% di stipendio aumentato. Un'insolita escalation che ha portato la pensione appunto a 8.593 euro al mese. Lordi, per carità, lordi. Adesso per te saranno volatili per diabetici. Ma è un quiz? Saranno cazzi veri! Alessandro Milan, Er Pupone, per l'informazione! Ah, Er Pupone, ah, la Roma! Prima! Prima! Ah, prima la Roma! Insieme, insieme alla Juve, vabbè, comunque. State allegri, cari amici della Juve. Allora, quello che è successo ieri in piazza. Beh, quello che è successo ieri oggi viene riportato da tutte le prime pagine dei giornali, con le polemiche, con le tensioni, con le discussioni, cariche al corteo, feriti 6 operai. Renzi dice al Viminale: accertare i fatti. Questo è il titolo di pagina 2 del Corriere, la cronaca, ma è interessante soprattutto concentrarci sui retroscena. Per esempio, Fiorenza Sarzanini racconta il clima al Viminale, Ministero dell'Interno. Noi avremo ospite il vice ministro dell'Interno Filippo Bubbico alle 8.45. Ebbene, Fiorenza Sarzanini a pagina 3, la difesa degli agenti, il disagio di Alfano, brutto giorno per tutti. La polizia fa muro, dice e scrive Fiorenza Sarzanini. I vertici difendono l'operato degli agenti, ribadiscono fino a sera la versione della questura che esclude cariche. Sono state semplici azioni di contenimento. Alle 13 comincia tutto, in quel momento Alfano, ministro dell'Interno, è a Palermo, lo informano di quel che è successo, viene diramato il comunicato della questura che giustifica l'intervento sostenendo che i manifestanti volevano occupare la stazione Termini, bisognava fermarli. Da lì inizia una cronaca di giornate, anche Renzi che scrive a Landini, chiama Landini, Landini che dice nessuno si è fatto vivo, Renzi che dice smentito, ecco qua i messaggi, gli sms. Alle 19.30 viene diramata la nota del governo con Renzi, la richiesta di avere un'analisi dettagliata per accertare le responsabilità. Questo fa capire, secondo Fiorenza Sarzanini, che si dà per scontato che ci siano stati errori nella gestione dell'ordine pubblico. Oggi Alfano riferirà al Senato e alla Camera. Tra l'altro, scrive il Messaggero a pagina 3, sempre il retroscena di Alberto Gentili, Renzi viene dato per uno irato. Ieri ci vogliono far passare per il capo, mi vogliono far passare per il capo del governo che manganella gli operai. Invece, se qualcuno ha sbagliato, ora dovrà pagare. Una violenza comunque inammissibile, un eccesso di reazione da parte dei poliziotti. Queste sono le frasi che vengono attribuite al presidente del Consiglio dal Messaggero. Così si fa un favore alla CGIL e alla Camusso. Questa è la linea di Renzi. E anche nel retroscena di Repubblica, pagina 2 e 3, e fa un po' impressione però vedere che tutto venga, come dire, sempre declinato con le possibili ripercussioni politiche. Intanto, voglio dire, il vero dramma è che ci sono delle persone, non solo quelli di Terni, che rischiano il posto di lavoro, o no? Siamo d'accordo su questi. Comunque, fa impressione nel retroscena vedere che tutto ha questo riflesso politico. Francesco Bei su Repubblica, pagina 2 e 3, il sospetto del premier è questo: qualcuno punta alla spallata del al governo. Approfittando della crisi, qualcuno sta tentando di darci una spallata. E quel qualcuno, scrive Repubblica, assume sempre più le sembianze del leader della CGIL, Susanna Camusso. Lo sanno benissimo, avrebbe detto Renzi ai suoi, che stiamo facendo di tutto per risolvere quella vertenza del lavoro. Lo sanno bene perché li teniamo informati. Camusso sta politicizzando tutto. Che senso ha accusare Renzi di essere espressione dei poteri forti? Dice per esempio anche Orfini, vale a dire il presidente del PD. Vogliono farci passare per quelli che picchiano gli operai. Così dice Renzi ai suoi, mentre si racconta in questo retroscena anche la testimonianza di Giorgio Airaudo, ora deputato SEL, ex leader della FIOM. Non c'era alcun contatto fisico con gli agenti, eravamo a 4-5 metri dal cordone della Digos, ma mentre cercavamo di parlare al telefono con Alfano, qualcuno dei suoi collaboratori, è partita una carica a freddo. Insomma, il clima è questo qui. Sentite per esempio, a proposito di qualcuno ordinato, che cosa dice il deputato del PD, Zoggia. È vero che fa parte della cosiddetta minoranza. Bersaniano, intervistato dal Corriere della Sera, Fabrizio Roncone, a pagina 5, dice così: pensate un po', alla Leopolda, il finanziere Davide Serra, VIP, amico di Renzi, dice cose gravi e inaccettabili sul sindacato. E poi, 3 giorni dopo, che succede? Succede che i poliziotti vedono gli operai, abbassano la visiera del casco e caricano. Ecco, questo Zoggia alla Leopolda, Serra contro i sindacati e lo sciopero, 3 giorni dopo i manganelli. Questo è il titolo dell'intervista del Corriere della Sera. E Zoggia è uno del PD, Susanna Camusso fa un'intervista al Fatto Quotidiano. Salvatore Cannavola intervista a pagina 3. Botte non è un caso. Anche lei alimenta un po' quest'idea dell'ordine venuto dall'alto. È gravissimo quello che è successo ieri, dice, esordisce così Susanna Camusso. Ho detto ad Alfano, dopo che l'ho chiamato, che è avvenuto qualcosa di grave e chiediamo al governo di rispondere. Occorre molta attenzione. Stupisce sempre che queste cose possano avvenire per caso. Ci deve essere un ordine. E quindi questa è l'idea di Camusso, che poi aggiunge: ma non faccio la dietrologa. Vabbè, insomma, però la frase c'è. Tra l'altro Susanna Camusso invece non risponde a Pina Picerno, che è sempre anche lei eurodeputata del PD, aveva detto ieri ad Agorà, con una formula ambigua: potrei dire che la CGIL, la Camusso è stata eletta con tessere false e ha portato in piazza con pullman pagati le persone, ma non lo dirò. Facendo così, in pratica, l'ha detto. Ebbene, Susanna Camusso dice: non replico a Pina Picerno, ma certo valuteremo gli elementi di diffamazione eventuali. Sta di fatto che Pina Picerno viene sentita da Repubblica a dire: ma scusi, ma cosa ha detto? È Tommaso Ciriaco che l'ha intervista a pagina 4, e lei dice: ma no, mi è dispiaciuto, la mia era un'affermazione provocatoria. Ho provocato come la Camusso che evoca poteri forti, massoneria. È sconcertante. Insomma, si difende così Pina Picerno: ho provocato proprio come provoca Susanna Camusso. Le dichiarazioni della Camusso non sono assurde? Io ho precisato, eppure lei dovrebbe farlo. Cioè quella intervista che ieri ha fatto Susanna Camusso, quando ha parlato di poteri forti, associando il fatto che una dichiarazione di Marchionne, che aveva detto di recente abbiamo messo là Renzi, evocando questa idea che ci fosse una sorta di poteri occulti dietro l'elezione di Renzi. Tanto che ovviamente i giornali si esercitano. Il Manifesto fa una pagina dedicata a Pina Picerno, definendola l'imbarazzante euro-renziana, ultras di Renzi, che aveva già detto che con 80 euro si campa in famiglia per 2 settimane, ed è definita da Domenico Cirillo nell'articolo un problema per Renzi. Mentre invece ci sono giornali come il Quotidiano Nazionale o il Giornale che tornano su queste voci che ci sono sempre state anche in passato, della possibile gonfiatura di teste da parte dei sindacati. Per esempio il quotidiano nazionale: scandali, privilegi, numeri gonfiati, ecco i conti sospesi del sindacato. Matteo Palo a pagina 5 sul Giorno racconta della polemica sulle tessere gonfiate antica, visto che stando alle cifre ufficiali gli iscritti ai tre principali sindacati superano i 12 milioni, ma si tratta di un numero che molto probabilmente è truccato, scrive il Giorno, dal momento che il peso in sede di trattativa dipende dalla quantità di iscritti. E così anche il Secolo XIX, figuranti prezzolati, no, gente esasperata. Il tema è, insomma, chi è andato in piazza, c'erano anche i prezzolati. In tutto questo, ripeto, si perde certamente di vista il fuoco, il punto principale, che come ci racconta Repubblica pagina 7 è questo: ci sono 160 aziende in crisi, 160 tavoli aperti al Ministero dello Sviluppo Economico per un totale di 155.000 lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Di questi 28.000 sono già stati dichiarati in esubero. Non c'è solo ovviamente la ThyssenKrupp, ieri sulle prime pagine è finita oggi la ThyssenKrupp per questi incidenti, ma sono 155.000 i posti di lavoro a rischio. Questa è il dato di fatto, invece è tutto già buttato in politica. A proposito delle accuse di poteri forti lanciate ieri da Susanna Camusso, poteri forti che avrebbero messo lì il Premier, oggi il sottosegretario Del Rio risponde a stretto giro, sempre su Repubblica, intervistato da Goffredo De Marchis, dice: aggrapparsi alla dichiarazione di un imprenditore, in questo caso Marchionne, nel migliore dei casi è infantile e nel peggiore dei casi rivela una vecchia logica del sospetto e dell'insinuazione. Se la CGIL guardasse ai fatti capirebbe che è esattamente il contrario. Noi abbiamo tassato le rendite finanziarie, tassato le banche. Andate a chiedere se certi manager e banchieri sono contenti di questo governo. Insomma, Del Rio si dice amareggiato, molto dispiaciuto per gli scontri ieri in piazza. Una ricostruzione dei fatti sarà trasparente, lo promettiamo, ma rimanda al mittente le accuse di essere parte di un governo dei poteri forti. Eccolo qui il potere forte, vero, unico, che conta, l'uomo in grado di garantire un rigore a partita all'Inter, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, no, non vorrei, adesso va bene tutto, buongiorno Alessandro, però visto che già abbiamo avuto delle vicende calcistiche poco chiare in altri anni, non che hanno riguardato la mia squadra, vorrei precisare, ma la tua sì. Stai accusando? Ecco, no, stai attento a fare questo tipo di presentazioni, anche perché intanto ho scoperto... Hashtag rigore per l'Inter. Rigore per, sì, un Inter di rigore, ma volevo dirti che abbiamo scoperto come si dice gufo in inglese. Sì, ce l'ha suggerito un grandissimo ascoltatore. Ah, il gentilissimo Davide che ci ha detto, guardate che gufo nel senso di menagramo, esatto. Noi stavamo a ragionare nel gufo... del gufo nel senso del volatile, no, nel senso di menagramo si dice junk, e si scrive, si scrive con la I lunga, la I normale, la N e la K, questo così, tanto per fare un po' di cultura, perché ti parlo in inglese proprio oggi? Chissà Alessandro. Perché, forse perché parte Italy 24, forse. È proprio così, è proprio così, e tra l'altro proprio sul Sole 24 Ore c'è anche una... spiegazione dei contenuti di Italy 24 che trovate sul, anche partendo dal nostro sito www.sole24ore.com. C'è la volontà appunto di spiegare l'Italia ai non italiani o fuori dall'Italia, insomma chi è fuori dall'Italia, magari appunto compresa di gufi, cosa che non è stata semplicissima, ma ci siamo riusciti. E bisognerà spiegare anche perché queste cessioni, questi crediti della PA sono sempre un tormento. Oggi di nuovo ci torniamo sulle pagine di Imprese e Territori, vanno a rilento anche le cessioni dei crediti che erano una parte di questo smaltimento, siccome qualcuno aveva promesso che andava a piedi non ricordo più dove, non vorrei che dovesse cominciare a mettere le scarpe da tennis quello della canzone di Iannacci. Ecco, no, da adesso si dirà da jogging, diciamo, non vorrei sembrare come quello del gettone nell'iPhone, però insomma d'altra la parte tennis, anagraficamente un po' lo sono. Sì, sei veramente out. Ecco, poi sì, volevo anche segnalare che tu parlavi poco fa di lavoratori, di vertenze di lavoro, intanto riferiamo anche della difficile trattativa sul rinnovo del contratto dei bancari, un rinnovo che fortunatamente non ha conosciuto vicende più cruente come quelle di ieri riguardanti la ThyssenKrupp, ma che comunque è molto molto faticoso. Poi devo dirti un numero, 148. Ah, meno 148, sì. I giorni che mancano all'attuazione della riforma del fisco, tra 148 giorni avremo il nuovo fisco. Ce la faremo. Siamo un po' indietro, ma ce la faremo, dobbiamo crederci, tu ci stai credendo? Tantissimo, io mi sveglio e dico sì, molto dai. Bene. E allora stai attento con i conti all'estero, ti diciamo perché hai norme tributi, il tempo degli evasori dovrebbe essere agli sgoccioli e per il momento, caro Alessandro, traffico. Alessandro Milan, il Van Basten dell'informazione. Ma magari ragazzi. Intanto voglio salutare con un grande abbraccio, vedo solo ora con colpevole ritardo il messaggio di un pasticcere, Ivan Pasticceria, da una provincia di Verona, che prima quando ho letto la notizia mani sul volante... ha detto ops, stavo riempiendo un bignè, mi è scoppiato in mano. Ma sono, caro Ivan, anche momenti di felicità, insomma. Io, fossi goloso come sono, fossi lì, avrei potuto approfittare della crema dappertutto. Va bene, allora, che dire della cronaca e della politica? Ieri Renzi ha incontrato l'ANCI, cioè i comuni. Come raccontano tutti i giornali, i comuni si sono lamentati di questa manovra. Il Premier ha proposto la local tax per i comuni. Sapete che l'idea è questa: sostituire tutte le tasse con un'unica tassa, un'unica local tax al posto della miriade di tasse e tributi imposte dai comuni. Fassino si è lamentato però della mancate dei tagli di circa 3,7 miliardi che creano problemi di sostenibilità. E qui il tavolo è aperto. A un certo punto, come racconta Antonella Baccaro a pagina 11 del Corriere della Sera, io sono sobbalzato sulla sedia quando a un capoverso ho letto la seguente frase: anche le province ieri hanno fatto sentire la propria voce. Ah, ma come? Le province? Ma allora è vero che esistono ancora, posso continuare a contare. Siamo nella 78esima settimana decisiva per l'abolizione del... cioè, si può, sì, lo scrive il Corriere, le province hanno alzato la voce, allora esistono. Facciamo un salto all'estero, perché il Corriere della Sera sempre racconta che ci sono tre stati americani che il 4 novembre prossimo, sono Oregon, Alaska e Washington DC, voteranno, e non sono i primi, alcuni stati hanno già votato in passato, per la legalizzazione della marijuana a scopo creativo, quindi per la legalizzazione del fumo. Altri tre stati votano sulla marijuana, una pagina del Corriere dedicata a questo. Il tema è la fine del proibizionismo in America, come dei pezzi di domino, uno stato dopo l'altro votano in questo senso. Certo, poi ci sarà il voto, bisognerà vedere anche se vincono i coloro che sono a favore di questa legalizzazione. Comunque, c'è il dibattito, la politica si divide. Il test del Colorado, che è stato uno dei primi stati, dall'inizio di quest'anno è possibile comprare la marijuana nei negozi autorizzati o riceverla a domicilio come una pizza, ha dimostrato che i timori di un aumento del crimine non si sono materializzati, questo secondo alcuni studi pubblicati da diversi think tank, per esempio il Brookings, il Cato Institute, mentre lo Stato ha incassato 45 milioni in tasse sulla vendita dell'erba. Una parte è destinata a costruire nuove scuole e a fare programmi per insegnare ai bambini a stare lontani dalle droghe. Quindi questo è quello che succede: si raccolgono le tasse, 45 milioni in Colorado, per fare le scuole e per fare politiche di prevenzione all'uso della droga. Questo con le tasse raccolte dalla droga. Beh, il tema è sempre molto interessante, mentre come episodio di cronaca che ti racconta Libero, io l'ho letta, era un po' tra lo spassoso e la notizia invece vera, però di fatto. Il titolo è questa, pagina 11: il Senato rimuove Marino. In realtà rimuove, vabbè, questo è il titolo di Libero, purtroppo è soltanto la sua auto. Succede, come racconta Barbara Romano, che la macchina Fiat Panda rossa del sindaco di Roma, Marino, da mesi è posteggiata gratis sotto Palazzo Madama. Marino ha ottenuto questa possibilità perché, come aveva segnalato in passato, la sua macchina è stata vittima di oggetti, di episodi di danneggiamento e vandalismo. Un vandalismo che è un danneggiamento, insomma, in pratica gli hanno trovato una fiancata rigata di 18 centimetri. E quindi ha fatto richiesta per mettere la macchina in una zona più controllata, e gli è stata data la possibilità di metterla, parcheggiarla al Senato. Però ora la macchina del sindaco della capitale deve essere spostata dopo un'interrogazione, le proteste del nuovo centrodestra. Finalmente, scrive Libero, il Senato ha deciso, Marino non ha più diritto a posteggiare la macchina al Senato. Beh, una pagina di Libero. Sono a darvi questa notizia invece dal secolo XIX. Cari italiani, siamo ignoranti. E siamo ignoranti del nostro stesso paese, di quello che succede. Come racconta Lorenzo Cresci, è stata fatta una ricerca con domande tra 11.527 persone di diversi paesi, di tutto il mondo, domande sulla conoscenza di quello che è nel nostro paese. Per esempio, ogni 100 abitanti, quanti hanno più di 65 anni in Italia? Dai, rispondete. Non so, comunque la risposta giusta adesso non la trovo, comunque 21? Sì, 21% degli italiani sono sopra i 65 anni. Oppure, qual è il tasso di disoccupazione in Italia? Il tasso di disoccupazione, forse rispondere, Lorenzo, quant'è? Il 7%, magari il 12%. E quindi, insomma, in base a queste domande si è sancito che gli italiani sanno ben poco del proprio paese. Siamo al penultimo posto, anzi all'ultimo posto in un test internazionale, come racconta il secolo XIX, su conoscenza del proprio paese. Chi vince invece, chi è più preparato? Gli svedesi, belli, ritti, biondi, imperterriti, sanno tutto di quello che succede in Svezia. Siamo quasi alla conclusione. L'inventore dell'allegro chirurgo, che ha venduto questo gioco straordinario in tutto il mondo a milioni di bambini, ora fa un crowdfunding, cioè raccoglie dei fondi perché non ha neanche i soldi per farsi operare. Non è una barzelletta, è una triste verità. L'allegro chirurgo, l'inventore, devo operarmi e non ho neanche i soldi. Fate una colletta. Così parla l'inventore John Spinello. Sembra tutta una barzelletta collegata alla notizia di prima sulla marijuana, ma invece è tutto vero. Va bene, ma leggo dalla Gazzetta, aggancio! Aggancio, questo è il titolo di prima pagina. La Roma ha raggiunto la Juve, battuta al 94esimo. Ma cari amici della Juve, come dico sempre, state comunque molto allegri, che il campionato è lungo e siamo al momento conclusivo. La carta costa, l'articolo più inutile, scovato su due giornali, una pagina intera della Stampa e del Giornale. Diamo il premio al Giornale, perché a mio insindacabile giudizio, Simonetta Caminiti, è arrivato il nuovo decalogo del Galateo per la tecnologia. Non si fuma coi colleghi davanti, non ci si trucca in metropolitana, non si parla al telefono ad alta voce. Ma chi se ne frega!